Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Spesso il calcio può essere un veicolo, uno strumento per cercare di cambiare. Noi, con tutta onestà, siamo in un paese vecchio. Abbiamo idee vecchie, abbiamo modalità vecchie, abbiamo veramente tante cose che dovremmo avere il coraggio di dire ok, cambiamo. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Parole di questa estate, ma ancora di grandissima attualità, quelle della CT della Nazionale Cesare Prandelli, con cui prende il via questa puntata. Oggi, vi anticipiamo, parleremo molto di ricerca, ma anche di management. Per cominciare però, come sempre, la frase della settimana. Abbiamo il dovere di proteggere i nostri giovani, metterli a frutto nel nostro paese. Non dobbiamo costringere i nostri talenti ad andare via perché in Italia non ci sono le condizioni per poter operare. Firma Riccardo Muti. Ci spiace molto, maestro, ma continuano ad andarsene, e non solo in campo musicale. Una volta messo il naso fuori dall'Italia e visto come girano le cose in altri paesi, soprattutto quelli che ho frequentato io, quelli mitteleuropei, la voglia di tornare in patria sinceramente non è grandissima. Alessandro Tulli, 35 anni, è Executive Director e Deputy CEO per Swiss Life a Zurigo. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. In apertura torniamo a parlare di Nova Italia, la piattaforma per ricercatori e scienziati della penisola presentata pochi giorni fa al Ministero degli Esteri. Mettere in rete i cervelli italiani nel mondo, questo l'obiettivo. Non vogliamo creare una forma di censimento, ma offrire opportunità di contatto, ha affermato il Ministro degli Esteri Giulio Terzi. Sentiamo come Terzi ha presentato la piattaforma. In Nova Italia è una piattaforma informatica accessibile da telefoni e tablet, consente agli utenti del mondo scientifico di condividere idee, di scambiare informazioni su programmi e su opportunità. È un grande spazio virtuale nel quale si possono discutere progetti che hanno importanti ricadute produttive, si possono sensibilizzare istituzioni su temi che stanno particolarmente a cuore agli individui e alle comunità scientifiche. E per il ministro della ricerca Francesco Profumo, l'Italia, già ricca di grande capitale umano, deve diventare un paese attrattivo. Sentiamo. Pochi scelgono il nostro paese, molti scelgono altri paesi perché noi siamo un po' troppo formali, probabilmente non abbiamo le strutture sufficienti, e questa è una grandissima perdita per il paese. Noi dobbiamo riuscire a dare le opportunità, le stesse opportunità che danno gli altri paesi, ai nostri e anche a ricercatori di altri paesi che decidono di investire una parte del loro sapere proprio in questo paese. Noi ne abbiamo più che mai bisogno. Per maggiori informazioni, innovitalia.net. Quanto è alto lo spread tra Italia e Germania? Lo spiega un rapporto 3L presentato in un convegno con la Fondazione Rocca. L'Italia è migliorata per tasso di laureati. Nel 2000 i giovani dottori erano solo il 19%, nel 2010 sono arrivati al 32%, ma l'Europa è passata al 40% nello stesso periodo. L'Italia è pure indietro per spesa totale per università, investimenti in ricerca pubblica e privata e trasferimento tecnologico. In Germania il 7% degli under 35 ha un titolo di istruzione post secondaria professionalizzante, una tipologia di capitale umano ancora assente qui. Il governo ha deciso di stanziare 235 milioni per incentivi alle imprese destinati all'occupazione di giovani e donne. Lo ha annunciato il ministro del lavoro Elsa Fornero. Gli incentivi saranno validi fino a marzo. Ancora sulla ricerca, è napoletana da 5 anni all'estero, torna in Italia grazie a fondi Telethon. La ricercatrice Esther Zito, 35enne, rientra all'Istituto Mario Negri di Milano, costituendo il proprio gruppo di ricerca grazie al finanziamento quinquennale da 500.000 euro, vinto col programma Carriere dell'Istituto Telethon d'Ulbecco. Bologna resta l'unica università italiana nella top 200 della classifica QS, che piazza al primo posto l'MIT americano. L'Unibo tuttavia perde 11 posizioni. Nessuna università della penisola rientra tra le prime 200 per proporzione di studenti internazionali rispetto al totale. Cervelli contro il declino. L'ultimo numero della rivista Spegna tratta il tema del capitale umano qualificato Made in Italy con un punto di vista alternativo. Roberto Menotti, coordinatore delle attività internazionali di Aspen Institute. Il punto non è soltanto far rientrare i cervelli, a volte per esempio, come dicono alcuni autori del numero, può essere più opportuno tenere i cervelli lì dove sono, cioè all'estero, proprio perché possono fare da canale di collegamento fra l'Italia e il resto del mondo. Quindi non si tratta semplicemente di farli rientrare nell'attività imprenditoriale dell'università, della ricerca in Italia, ma di aprire l'Italia all'estero. Quindi, se vogliamo, il messaggio più ampio è quello di aprire e internazionalizzare il paese guardando all'estero con un po' più di coraggio, senza soltanto avere timore di essere schiacciati, insomma, dalla competitività altrui. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Svizzera. Fa sempre un certo effetto sapere che solo poche centinaia di chilometri sopra di noi merito e competenza trovino un'accoglienza ben diversa. Nome: Alessandro. Cognome: Tulli. Età: 35 anni. Città di origine: Roma. Studi: giurisprudenza. Anno in cui hai lasciato l'Italia: definitivamente nel 2008. Per andare dove? Prima in Germania e poi in Svizzera. Perché? Scarse prospettive professionali in Italia e desiderio di vivere in un contesto sociale più moderno e meritocratico. Quale lavoro svolge attualmente? Responsabile del dipartimento product management di una delle compagnie del gruppo Swiss Life. Dove? Tra Zurigo e Lussemburgo. Tornerai? Nel breve medio periodo no. L'italo-svizzero Robert Miles Voyage. Il viaggio come leitmotiv di questa puntata della tua storia, Alessandro. Viaggio che dovrebbe presupporre in teoria una partenza e un ritorno. Non nel caso di chi lascia l'Italia, però. Profetiche furono le parole di un tuo mentore. La domanda non è se potrai tornare, ma se vorrai rientrare. Ti disse quando sei partito la prima volta. Perché si rivelarono maledettamente vere quelle parole? Io gli chiesi se secondo lui era sensato, visto che avrei perso molti legami personali e sociali, e devo dire a posteriori aveva assolutamente ragione. La domanda è se vorrai rientrare. Una volta messo il naso fuori dall'Italia e visto come girano le cose in altri paesi, soprattutto quelli che ho frequentato io, quelli mitteleuropei, la voglia di tornare in patria sinceramente non è grandissima. La tua avventura comincia come per tutti sui banchi dell'università, ti iscrivi alla Sapienza di Roma, laurea in giurisprudenza. Cosa ti porta verso legge? Molto semplice, da ragazzino volevo fare l'avvocato, ero molto affascinato da questa professione. E come per molti giovani ora all'estero, il punto di svolta arriva grazie a un'esperienza Erasmus, nel tuo caso a Regensburg, Germania, dove al di là dei diversi metodi di insegnamento e di un ateneo più a misura di studente, resti scioccato dai professori, che fanno solo i professori, ben diversi da certi nostri docenti universitari. Spiegaci meglio. Innanzitutto il primo fattore di sorpresa è stato che i professori ordinari erano veramente giovanissimi e poi soprattutto che fossero dedicati al 100% all'università. Erano infatti sempre presenti a lezione e soprattutto all'orario di ricevimento, molto disponibili al colloquio e soprattutto dispensatori di preziose indicazioni e consigli. Ti laurei nel 2002, a posteriori che giudizio dai dell'università italiana? Dal punto di vista teorico sicuramente ottimo, superiore alla media europea anche dal punto di vista della cultura generale, però tuttavia molto lontana dal mondo del lavoro e ad esempio non è possibile che solo alcune università private, per cui si pagano peraltro delle rette molto alte, prevedano percorsi di inserimento in azienda e stage. A quel punto espatri per la prima volta per lavoro ancora in Germania, ma a Monaco di Baviera, contratto a tempo determinato all'ufficio legale della Übervereinsbank, seconda banca privata tedesca. Come sei stato selezionato? È stata soprattutto un'esperienza professionale utile? Sono stato selezionato in maniera tradizionale, ho visto su internet l'annuncio, ho inviato il mio curriculum e ho fatto un primo colloquio telefonico, a cui poi è seguito un secondo personale a Monaco di Baviera. È stata senz'altro un'esperienza estremamente positiva, ben retribuita, e mi ha colpito in particolare che sono stato adibito a mansioni intellettuali e non assolutamente amministrative, come magari mi sarebbe capitato in Italia all'inizio della carriera. Il contratto scade, tu opti per restare ancora un altro anno in Baviera e torni sui banchi universitari per un master in diritto dell'economia internazionale e dell'impresa. Qui entra in gioco un altro discorso, quello dell'aiuto allo studio. Parliamo di un sistema, quello tedesco, che incentiva l'iscrizione ai master e la formazione di capitale umano. Ci spieghi concretamente come e perché un sistema così democratico in Italia non potrebbe purtroppo funzionare da noi? C'è una cosa che distingue la Germania dall'Italia, che lo Stato interviene direttamente promuovendo lo studio universitario attraverso delle rette bassissime. Io pagai pochissimi euro per iscrivermi all'università. E poi c'è un sistema che si chiama BAföG, e questo consiste in un prestito erogato dallo Stato che sovvenziona gli studi dei non abbienti, che va restituito in 20 anni senza interesse, con interruzione dell'obbligo restitutorio qualora si perda il posto di lavoro. Questo chiaramente è semplicemente impensabile in Italia per tantissime ragioni, e secondo me non da ultimo perché da noi non è sempre chiaro chi sia veramente non abbiente e chi invece dichiara solo di esserlo. Concluso il master, torni a sorpresa in Italia. Perché? Chi te lo fa fare? Ritorno sostanzialmente per motivi privati, legami familiari, ma anche perché volevo fare l'avvocato e pensavo che la mia istruzione, come dire, fosse meglio spendibile in Italia che all'estero. Grazie al tuo curriculum vieni assunto da una delle prime 4 società di consulenza mondiali. Tutto ok, ma solo apparentemente. Ci puoi descrivere la tipologia di contratto, paragonandola al carico di lavoro reale e commisurandola al salario? Beh, è stato un contratto di consulenza, in particolare partita IVA, anche se a tutti gli effetti era un dipendente e non un consulente, peraltro con una remunerazione veramente irrisoria, ai limiti della dignità, paragonata a quella di un mio pari in un paese straniero. La definisce i limiti della dignità. Un amico che lavorava presso la stessa azienda a Parigi non ci voleva credere. Il carico di lavoro era veramente sproporzionato e non potevo assumere responsabilità che avrei voluto. Ecco, perché la definisce i limiti della dignità la remunerazione? Perché era oltre ogni soglia di accettabilità per chi abbia studiato a lungo e si sia formato sui libri e decidendo di posticipare l'inizio dell'esperienza professionale proprio per investire in formazione. Ma Alessandro, com'è possibile che anche le multinazionali, quando mettono piede in Italia, si declinino all'italiana, dimenticando o parcheggiando i valori del merito, della competenza, della valorizzazione e selezione dei migliori? Secondo me ci sono due problemi fondamentali. Il primo è che il management anche di queste multinazionali estere in Italia è comunque italiano, quindi sostanzialmente vengono applicate le categorie italiane anche se l'azienda è straniera. E secondo poi un elemento da non sottovalutare è che i giovani sono veramente disposti a tutto in Italia, accettano spesso condizioni vessatorie e sono disposti ad accettare ciò che non andrebbe accettato e ciò che i loro pari grado all'estero non accetterebbero, soprattutto questo per l'ambiente che conosco meglio, che è l'ambito giuridico-economico e della consulenza. Prima di abbandonare nuovamente l'Italia, fai un ultimo passaggio in uno studio di consulenza internazionale, esperienza migliore della precedente, ma buone intenzioni a parte, scenari futuri poco incoraggianti. A quel punto ti chiedi perché non tornare sui miei passi ritentando la fortuna all'estero? E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Alessandro, ci riassumi in breve le 6 tappe che ti hanno portato a Zurigo con Swiss Life, partendo dal semplice invio del curriculum? Ho inviato il curriculum alla Swiss Life International di Zurigo, che sapevo stava reclutando del personale per un'espansione del business. Poi ho fatto il primo colloquio a Lugano, a spese dell'azienda, chiaramente è implicito in Svizzera. Poi sono stato contattato dal capo del personale, che voleva capire bene i dettagli delle mie aspettative professionali e soprattutto economiche. Poi sono stato sottoposto ad un assessment center e ad un esame psicoattitudinale. Mi è stato inviato il contratto di lavoro con qualifica dirigenziale entro non più di 2 settimane dal giorno del primo contatto e dopodiché le risorse umane mi hanno dato assistenza per la relocation a Zurigo con tutte le implicazioni anche di natura privata, in cui appunto ho avuto moltissimo supporto da parte dell'azienda. Vieni nominato dirigente a 31 anni, 3 anni dopo sei promosso a Executive Director e Deputy CEO, vera fantascienza se paragonata alla situazione italiana. Di cosa ti occupi esattamente adesso? Proprio in questi giorni abbiamo avuto una ristrutturazione aziendale e ho assunto un nuovo ruolo in un'altra delle compagnie assicurative del gruppo, la Swiss Life Lussemburgo. In questo momento sono responsabile di 2 dipartimenti, il Product Management e del Dipartimento Solution Structuring. In Svizzera l'età media dei manager è molto più bassa, osservi. Il tuo capo ha 36 anni, il CEO di tutta la Business Division internazionale ne ha 39, ma è stato nominato a 32. Eppure, noti, tutto ciò è normale, non c'è neppure un'ombra dello scontro generazionale in atto in Italia. Qual è il segreto di questi svizzeri? Primo il pragmatismo, per cui gli svizzeri, soprattutto quelli tedeschi, sanno che la meritocrazia conviene. Secondo poi le relazioni familiari e personali, che sono così importanti in Italia, non sono qui il viatico per la carriera. Qui i figli si vergognerebbero troppo a lavorare con i padri, sinceramente. Inoltre, il management aziendale è affidato a manager qualificati e la proprietà non ricerca manager in famiglia, appunto, come troppo spesso accade in Italia. Come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Io credo che l'Italia abbia bisogno disperato di attrarre talenti, ma per miopia politica e sociale, pur di difendere interessi di un ristretto numero di individui, si sta lasciando sfuggire ormai da troppi anni i giovani più capaci. Io credo che l'Italia sia purtroppo un paese in declino, non solo economico, ma anche sociale e culturale. E un tema secondo me centrale sono i salari, sono veramente troppo bassi per i giovani. Secondo me l'Italia ha bisogno di proposte shock, di una cura shock. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani immigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Alessandro Tulli, 35enne Executive Director e Deputy CEO per una delle società del gruppo Swiss Life a Zurigo. Alessandro arriva a questa posizione dopo un Erasmus in Germania, una laurea in giurisprudenza a Roma e un primo impiego nell'ufficio legale di una banca tedesca a Monaco di Baviera. Successivamente si ferma in Germania per un master, prima sorpresa del rientro in Italia. Assunto presso un'importante società di consulenza a Roma, si trova a sperimentare in prima persona le condizioni tipiche di un qualsiasi neolaureato: stipendi irrisori, carichi di lavoro sproporzionati, 0 gratificazioni e visibilità, prospettive di carriera precluse. Un altro passaggio in Italia prima di cogliere al volo l'avventura in Svizzera e scoprire che il problema non è andarsene ma avere la giusta determinazione a tornare. Ci raggiunge ora in linea Guido Carella, presidente di Manager Italia, una delle più importanti associazioni di manager nel bel paese. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi e ai radioascoltatori. Dottor Carella, come Manager Italia state conducendo una battaglia per una maggiore valorizzazione della cultura manageriale in un paese che voi stessi definite definite a scarsa trazione manageriale, soprattutto nelle piccole e medie imprese, cioè il 95% delle imprese italiane. Ma ad ascoltare Alessandro Tulli il dramma è ben più profondo, è il dramma di un paese non solo poco manageriale ma anche parecchio allergico ai giovani. Su questo fronte cosa intendete fare? Intanto faccio i complimenti ad Alessandro Tulli per la sua brillante carriera, e questo dimostra che nonostante le nostre carenze nel sistema formativo riusciamo a esprimere attraverso i nostri giovani una qualità che ci viene sicuramente riconosciuta dal numero sempre maggiore di giovani talenti che si sono stabilizzati nei paesi esteri, tanto che il saldo tra il flusso in uscita e quello di rientro è fortemente negativo, pensi che negli ultimi 10 anni si è quadruplicato. Questo è un gravissimo danno per il nostro paese, che è enorme, sia perché l'investimento in formazione non ritorna a nostro vantaggio, sia perché l'esodo riguarda principalmente profili ad alta qualificazione, vedi Alessandro Tulli, quindi competenze e conoscenze sottratte al nostro sistema produttivo. Io credo che la classe manageriale ha grandi responsabilità, perché più di chiunque altri può promuovere e sostenere il talento e il merito delle nuove generazioni. È il merito l'unica arma che potrebbe garantire quella mobilità sociale anche a chi non ha le risorse o una storia di famiglia importante. Lo diceva Alessandro, ancora oggi conta più la famiglia di provenienza o il network di conoscenze dei genitori che i risultati e le performance che si riescono a dare. Dicevo, la classe manageriale ha delle responsabilità, perché il ricambio generazionale è purtroppo una pratica poco agita in Italia. Io ce l'ho molto con la generazione del 68, che ha prodotto danni incredibili, prima con politiche sconsiderate di welfare pubblico e di sviluppo che hanno penalizzato le ultime generazioni, senza mai investire a lungo termine sul capitale umano, che è l'unico grande investimento che questo paese dovrebbe fare. Sentiamo se Alessandro ha una domanda per lei. Io in realtà ne avrei due. La prima è che ho letto in un recente studio UBS che un ingegnere romano lavora 200 ore in più di uno pari di Monaco di Baviera, ma guadagna 16.000 euro netti contro i 40.000 che guadagnerebbe a Francoforte o a Berlino. Il costo della vita sicuramente a Roma non è inferiore. In questo senso vi chiederei che cosa proponete di fare per sensibilizzare le aziende sul tema ed evitare che i migliori più volenterosi espatrino. E poi volevo anche chiederle, visto che le piccole e medie imprese e le PMI sono lo zoccolo duro della nostra economia, ma spesso arrivata alla fine del ciclo lanciato dal capo famiglia si guarda nipoti e figli piuttosto che a manager esterno per guidare l'azienda, con poi diciamo danni spesso non quantificabili. Ecco, cosa pensate di avviare un dialogo con le piccole e medie imprese e di indicare quanto di buono può accadere se il governo dell'impresa è affidato a giovani manager anche esterni alla famiglia? Manager Italia, l'associazione che rappresento, è una eccezione, perché l'età media è di circa 46 anni verso una media europea di 45 anni, quindi siamo quasi allineati. Circa quello che vogliamo fare per evitare che succedano queste incongruità e queste differenze troppo penalizzanti per i nostri giovani, diciamo che dal 2004 intanto abbiamo facilitato ai giovani under 39 l'ingresso nel ruolo dirigenziale, prevedendo una figura nel nostro contratto collettivo nazionale di lavoro, il dirigente di prima nomina, con un risparmio significativo di circa 9.000 euro annui per 3 anni sull'accumulo previdenziale complementare e integrativo. E l'età media di accesso alla dirigenza nel settore privato, nel nostro settore, è scesa a 37 anni. Altro progetto importante che abbiamo fatto per i giovani è un ponte sul futuro, cioè con l'adesione di oltre 5 colleghi nostri volontari, attivi e pensionati, che si sono sottoposti a un ciclo formativo per affiancare fuori orari di lavoro, in qualità di tutor o di coach, tutti quei giovani che hanno necessità di un affiancamento perché in azienda non trovano questa opportunità. Ecco Carella, c'è anche un problema di attrazione di manager stranieri. Noi abbiamo solo il 5-6% di manager stranieri in Italia, sono pochissimi. Sì. Non è un sintomo di inguaribile provincialismo? Sì, questa è, intanto dipende dalla scarsa presenza di aziende medio-grandi. Poi i manager presenti lavorano per lo più in gruppi stranieri che hanno già una presenza in Italia. Diciamo che poi c'è anche una scarsa propensione all'internazionalizzazione. Tra l'altro, la scarsa attrazione, secondo me, di manager stranieri è dovuta anche al fatto che ci sono modesti investimenti nella ricerca. Credo che la scarsa attrattività di investimenti esteri, quindi di manager esteri, dipende anche dalla difficoltà che abbiamo in Italia di fare impresa. C'è molto lavoro da fare. Grazie a Guido Carella, presidente di Manager Italia. E domanda finale per Alessandro Tulli: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita un espatrio? Sicuramente è una buona idea, ma gli direi di focalizzarsi su una misura concreta, che è quella secondo me fondamentale se si vuole lavorare all'estero, cioè imparare le lingue. Ma soprattutto, se posso citare una persona mia cara, non avere paura di volare e spiegare le ali verso le enormi opportunità del mercato del lavoro estero e chiaramente non solo quello europeo. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: Un Finances and Contracts Officer alla Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und Gestaltungssede di Bruxelles, scadenza per i CV 15 ottobre, info a gvg.org. Un ingegnere meccanico per la posizione di Design Integration Engineer alla sede Rolls-Royce di Dahlewitz in Germania, scadenza per i CV 19 ottobre, info a rolls-royce-motorcars.com. E infine tre posizioni da docenti a contratto universitari in economia all'Università di Oxford, Gran Bretagna, scadenza per i CV 26 ottobre, candidature a econjobmarket.org. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi restiamo in area germanofona per parlarvi di un network di professionisti italiani che si è da poco costituito a Berlino. Si chiama Berlin Italy, Pasquale Marchese ne è il cofondatore. Ci siamo accorti che il numero di italiani a Berlino sta crescendo in modo esponenziale. Infatti la popolazione italiana a Berlino negli ultimi 10 anni è raddoppiata. E quelli che stanno arrivando a Berlino non sono più diciamo i lavoratori con la valigia di cartone, ma sono per lo più laureati in cerca di occasioni professionali migliori rispetto a quello che può offrire l'Italia in questo momento. E dunque abbiamo capito che c'è l'esigenza di creare una piattaforma su cui questi professionisti possono mettersi in mostra e creare nuove possibilità di scambio e di relazione. Quali sono le professioni più interessanti per un giovane professionista italiano a Berlino? Il settore che sta avendo adesso molto successo è quello dell'immobiliare, ovviamente, perché c'è un boom immobiliare a Berlino e quindi ci sono molti che cercano i professionisti italiani per la vendita di case. Però Berlino è diventata anche la città delle start-up, dell'e-commerce, dell'online marketing, e ci sono molti ragazzi che arrivano e trovano possibilità di lavoro e sbocchi lavorativi nel campo dell'online marketing e della comunicazione online. Questi giovani scappano, e se sì da cosa, dall'Italia? Da una stagnazione ormai decennale. Gli sbocchi lavorativi in Italia per giovani laureati sono sempre di meno, e anche diciamo una stagnazione culturale che c'è nel nostro paese, dovuta ad una politica abbastanza retrograda e non attenta alle esigenze dei giovani. A Berlino trovano un ambiente dinamico dove succede qualcosa? Direi di sì. Berlino è la capitale più giovane d'Europa, è una delle capitali che offre di più dal punto di vista culturale, a livello proprio di offerta culturale, di musei, oltre poi al fatto che era una delle motivazioni principali negli anni passati, che gli affitti erano molto più bassi rispetto alle altre città, alle altre capitali europee. Quali sono i principali servizi che si possono trovare sul vostro portale? Ci sono architetti, troviamo medici, troviamo avvocati o notai che parlano italiano, troviamo consulenti immobiliari, tutto ciò che può servire sia agli italiani che intendono inserirsi a Berlino e che non sanno ancora parlare il tedesco, sia alle aziende tedesche che hanno bisogno di professionalità italiana. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.berlinitaly.de. Un motivo per restare o tornare. Infrastrutture e servizi digitali, creazione di start-up innovative, interventi fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione. Questi punti principali del secondo decreto crescita 2.0 approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. Diverse misure ad hoc per le start-up. Gli oneri di creazione saranno azzerati, saranno introdotti contratti flessibili per le assunzioni, ci saranno detrazioni per gli investimenti dei privati e vantaggi fiscali per i pagamenti in stock options. Le risorse immediatamente disponibili ammontano a 200 milioni di euro. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di ottobre è: siamo sempre più un'economia che perde lavoratori qualificati e attrae dall'estero lavoratori con qualifiche basse, esattamente il contrario di quanto stanno facendo i nostri maggiori concorrenti, denuncia il CNEL. Secondo voi l'Italia ha già perso la guerra dei talenti del terzo millennio? Soprattutto intravedete vie di uscita per invertire questo trend? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it.